Mentre in Grecia una generazione sta protestando con forza e calore, le agenzie di rating declassano i titoli di Stato greci a BBB+. Un grosso problema per Eurolandia. Si apre una nuova crisi 2.0? Buonasera da Anna Damolo. E da Adamo Annalo. Il nostro esperto di economia che già abbiamo invitato in una puntata precedente. Siamo nella settimana che porta all'11 dicembre, a venerdì 11 dicembre, giorno in cui ci sarà la manifestazione a Roma dei precari della conoscenza. Manifestazione di cui abbiamo parlato più volte nelle altre puntate. Sono attesi due cortei in questa manifestazione, uno organizzato dalla CGIL, in particolar modo dalla FDC, ovvero Federazione Lavoratori della Conoscenza, e un altro organizzato dai precari dell'università e della scuola, dagli studenti dell'università, che partirà dalla Sapienza. Sì, e i precari della scuola più Onda Perugia va al corteo che parte dalla Sapienza. Questo corteo parte alle ore 9 e si dirige al Ministero dell'Istruzione. Ed è un corteo autorizzato, è importante sottolinearlo. Noi di Onda Perugia, in collaborazione appunto con i precari, stiamo organizzando degli autobus. Abbiamo fatto anche una serata benefit di autofinanziamento, per cui l'autobus dovrebbe costare un prezzo molto molto popolare. Per informazioni comunque potete consultare il sito ondaperugia.noblogs.org. Ora basta con la pubblicità e cerchiamo di capire perché ci sono due cortei a questa manifestazione. Allora, sì, si è creata molta confusione su questa manifestazione, che insomma è derivata soprattutto al comportamento della CGIL, perché prima aveva dichiarato sciopero della conoscenza, come era stato richiesto dai precari, e poi invece ha indetto anche lo sciopero generale del pubblico impiego per lo stesso giorno e la stessa manifestazione. E in più, alcuni giorni dopo, ha detto di fare delle manifestazioni regionali e non più nazionali. Manifestazioni nazionali. Infatti lo stesso Epifani, a tutt'oggi non sappiamo dove si paleserà, l'epifania di Epifani non si sa se sarà a Roma, a Bologna. Pare che lui sarà a Bologna mentre a Roma c'è il suo avversario politico all'interno della CGIL. Comunque appunto, al di là di queste dinamiche interne al sindacato, cerchiamo di spiegare chi ci ascolta perché dopodomani ci saranno due cortei e in qualche modo perché ci sono stati anche due cortei a Roma nelle manifestazioni dell'anno scorso e perché probabilmente continueranno a esserci almeno due cortei per un po' di tempo. Sì, diciamo che la Federazione Lavoratori della Conoscenza e la CGIL in realtà rappresentano un po' poco i precari e per questo hanno provato a generalizzare lo sciopero proclamando quello del pubblico impiego. Generalizzare è una cosa buona, cioè cercare di allargare lo sciopero, ma il problema è che il pubblico impiego scenderà con delle proprie basi di vertenze contrattuali e quindi tutto il lavoro che si sta facendo da un anno e più sulla formazione e sulla conoscenza rischia di essere oscurato e di non passare ancora una volta nei mass media. Sì, per puntualizzare, ovviamente i precari della conoscenza, cioè diciamo studenti universitari, perché anche gli studenti universitari, come vedremo, sono precari della conoscenza, precari della scuola, precari dell'università, ma gli stessi professori docenti di ruolo della scuola, chiaro che scenderanno in piazza anche per chiedere un miglioramento delle loro condizioni contrattuali, cioè una parte vertenzialistica. Tanto per avere un'idea, quelli che a settembre si sono ritrovati senza cattedra e sono stati tra virgolette salvati dal decreto salva precari, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, ovviamente scendono in piazza per capire come si applica regionalmente questo decreto, cioè una parte puramente vertenzialistica, ma soprattutto scendono in piazza perché chiedere visibilità alla distruzione in atto di scuole e università prodotta da queste controriforme che da un anno a questa parte continuano a succedersi sulle nostre teste. Sì, se poi consideriamo che il 60% degli iscritti a CGIL sono pensionati, capiamo come invece la Federazione e i lavoratori a conoscenza non riescono a rappresentare una composizione che è molto giovane, che sono quelli precari della scuola e precari dell'università, e oltretutto ci saranno anche gli studenti, e quindi possiamo prevedere che in piazza in realtà i precari della conoscenza iscritti alla CGIL saranno molto pochi. Sì, e quindi il numero, perciò la CGIL in qualche modo per far numero cerca di chiamarlo pubblico impiego. E in sostanza, quindi che cosa dire? Potremmo dire che finché la CGIL non darà peso a queste nuove identità di lavoro, e questa parola nuova identità di lavoro non la usiamo a caso perché il NIDIL è proprio la parte della CGIL che dovrebbe occuparsi dei lavoratori soggetti a contratti precari, quindi diciamo contratti atipici, dicevo, finché la CGIL non darà peso a queste nuove identità di lavoro, fatalmente in tutte le manifestazioni di piazza ci sarà sempre più di un corteo, cioè un corteo di chi come cerca avvertenze, e un corteo in cui invece vuole visibilità sui problemi che stanno al di là, cioè i problemi di fondo che non sono puramente contrattuali. Insomma, continuando così potrebbe accadere quello che dice Ascanio Celestini in una sua canzone, cioè che verrà quel giorno in cui ricorderemo i precari del lavoro come i caduti nella Seconda Guerra Mondiale. E torniamo quindi in studio. Allora, quindi abbiamo capito perché ci sono due cortei, ora cerchiamo di capire perché all'interno dello stesso corteo, quello che parte dalla Sapienza e si dirige al Ministero, ci sono rappresentanti precari studenti della scuola e rappresentanti precari studenti dell'università. Sì, è importante riconoscere che l'attacco viene portato dal governo all'istruzione pubblica, ma anche dai vari governi negli ultimi 19 anni, sì, a una stessa matrice. Dalla legge Ruberti in poi, 1990, diciamo. Sì, sì, per fare, diciamo, 19 anni. Per fare un po' di archeologia. Esatto. Insomma, questo attacco ha una stessa matrice e gli stessi obiettivi. Quindi cancellare dal bilancio dello Stato le voci come la scuola statale e l'università pubblica, e approfittare della crisi che viviamo, e la crisi è sempre un'opportunità per cambiare politiche, per generare un sistema formativo che non contempli più parole come diritto allo studio, democrazia o partecipazione. E questo poi da incorniciare nella considerazione il fatto che è un attacco a tutto lo Stato sociale nel suo complesso, e quindi la formazione è una parte di questo attacco, e quindi, diciamo, ai diritti sociali di tutti. L'idea che un po' sta passando negli ultimi anni, che è tutto il pubblico che sia parassitario, sì, che non serve a niente, che succhia solamente. Però in realtà quello che sappiamo è che loro non è che, una cosa che abbiamo ripetuto anche spesso durante le puntate precedenti, cioè far passare il pubblico come parassitario ha un obiettivo ben preciso, che è quello... Sì, rubare, espropriare il valore prodotto proprio alle persone che lavorano nel pubblico oppure nella loro cooperazione quotidiana e, insomma, sociale. Esatto, il valore anche economico proprio prodotto. E quindi gli studenti devono difendere scuola statale e università pubblica? Non solo, qui si sta giocando molto altro. Gli studenti si devono rendere conto, e alcuni fortunatamente lo stanno già facendo, che sono anch'essi già dei precari, come quelli che lavorano nella scuola e nella ricerca, e che quindi, insomma, non si devono non devono scendere in piazza per difendere qualcuno, in realtà stanno difendendo anche loro stessi. Spieghiamo meglio questo concetto. In che senso gli studenti di università o della scuola devono anche considerarsi già precari? Sempre più spesso sia i studenti ai superiori che all'università vengono coinvolti in, diciamo, percorsi alternativi di formazione. All'università vediamo sempre più spesso stage, tirocini, eccetera, che ovviamente sono gratuiti e poi obbligati all'interno del corso di studio perché danno dei crediti formativi, quindi... Sì, chi è che non ha mai fatto fotocopie, chi non ha spostato mobili, innaffiato piante, insomma... Per avere questi famosi crediti. Questi famosi crediti. A scuola, ne approfitto io perché, diciamo, io ho avuto delle esperienze dirette a scuola come insegnante, la cosa avviene in modo un po' più indiretto. Racconto solo un episodio. L'Enel, quella che ci fornisce la luce e il gas, promuove annualmente un concorso per le classi quarte dei licei. Penso che siano non solo licei scientifici ma anche degli istituti. Bene, mi è toccato assistere 2 anni fa a un seminario fatto dall'Enel. Bene, ho scoperto che il nuovo contatore Enel è stato in qualche misura progettato da una delle classi vincitrici dei precedenti concorsi, quindi quel contatore che si vede sotto, che schiacciando più volte il pulsantino si passa numero cliente, kilowatt, bla bla bla, pare che quello sia stato, è una produzione che deriva da un'idea di una di queste classi vincitrici di uno di questi concorsi. Quindi qua è chiarissima l'appropriazione del lavoro intellettuale fatto a buon mercato da studenti. Ma non solo questo, fosse solo questo uno ci passerebbe su. A me è toccato, come professore accompagnatore, stare a sentire questa prolusione di questo tizio dell'Enel che ha parlato 2 ore per spiegare come a noi ci convenga di più il nucleare rispetto all'energia solare. Cioè, non noi, comunità, a noi, loro, Enel, convenga di più. Perché diceva, no, l'energia solare poi ci si spenderebbe troppo per trasportarla, che so, da Taranto a Milano. È chiaro, ma uno l'energia solare, se si mette i pannelli solari, non è che si mette i pannelli solari su casa per dare energia nucleare, per dare energia elettrica a chi sta lontano 50 km, la vuole riutilizzare lui. Quindi è chiaro che questa cosa, che quindi è una specie di indottrinamento, ideologia del privato e appropriazione, come detto, di lavoro prodotto dagli stessi studenti. È stata una cosa abbastanza brutta da stare a sentire. Sì, quindi vediamo questi esempi che queste persone, pur rimanendo all'interno delle istituzioni e la formazione, quindi... Sì, perché era a scuola, per esempio, questa cosa, cioè era proprio durante l'orario scolastico, giusto per precisare. Eh sì, ci sono degli studenti che sempre più, in maniera sempre più precoce, entrano in questi meccanismi di espropriazione del proprio lavoro, che sia fisico, quando uno va a fare un tirocinio in una, non so, in qualche fabbrica, così come impiegato, eccetera, sia cognitivo con queste ideazioni di progetti. E questo viene fatto sia dalle imprese private, questo è il caso dell'EME, ma viene fatto sempre più spesso anche dagli enti pubblici, che hanno un ruolo molto forte, secondo me, in questo campo, e oppure nel cosiddetto privato sociale. Eh sì, e del resto, poi se a questo aggiungiamo il fatto che sempre più difficili diventano le condizioni per accedere all'università, perché appunto la crisi economica va avanti, vediamo che più giovani studenti, diciamo, per potersi pagare l'università o per rendersi più indipendenti dalle loro famiglie di origine, sono costretti a cercare all'interno della, no, parliamo più che altro di università, della loro città universitaria, dei lavoretti per sbarcare, diciamo, il lunario. Sì, chi è che a Perugia non ha visto, insomma, dentro un ristorante degli studenti fare i camerieri? È la normalità che, insomma, nel centro di Perugia gli studenti universitari facciano camerieri, banconisti, pizzaioli, eccetera. Eccetera, cioè, poi senza poi tirar fuori, voglio dire, Euro Chocolate, questi mega festival tipo Euro Chocolate che inglobano tantissima gente, ma anche festival un po' più culturali tipo l'Ex Batik, che da quest'anno si chiama Immaginario Festival. Sì, è importante fare questo esempio perché, insomma, è molto caratteristico, perché uno parla Euro Chocolate, ne puoi parlare male. Sì, quanto, sì, quanto ne pari. Però l'Immaginario Film Festival è un bel festival. È un bel festival. A tutti, insomma. Sì. Cioè, però, film gratis, però all'interno. Però proprio perché è una cosa molto interessante, sempre più persone vogliono partecipare in, esatto, maniera volontaria. Ma in realtà per la città di Perugia è una produzione culturale molto importante, che si basa su molto lavoro gratuito, volontario, di studenti, sì, di, sì, precari, infatti, di appassionati. C'è gente che praticamente va lì pensando di poter così prendere contatti col mondo del cinema, ma si ritrova a dover fare volantinaggio, tanto per avere un'idea. E poi dice: no, vabbè, i primi 10 giorni fai volantinaggio, poi gli ultimi 4 giorni sta in sala a fare la maschera mentre i film vengono proiettati, quindi non vedono manco i film. Quindi, sì. E sì, poi, da un lato proprio opposto, speculare, ci sono questi studenti che hanno dei contratti particolari per fare l'operaio metalmeccanico classico, mm-hmm, oppure la cassiera alla Coop. E questi sono lavori caratterizzati o da paga minima sindacale, oppure, se ritorniamo ai ristoranti, a questi lavori, sì, nella ristorazione, sono addirittura contratti a chiamata, fasulli, o addirittura lavoro in nero, in cui neanche il minimo sindacale è garantito. Quindi sei solo il giorno prima, quante ore lavorerai il giorno dopo, se lavorerai. Sì, e infatti noi avevamo appunto intenzione di intervistare oggi una studentessa che mi pare si chiami Anna Damolo, anche lei, che aveva molto da raccontare riguardo a ristoranti di Perugia, persone, gestori di ristoranti anche maneschi, però ovviamente non è potuta venire perché ieri sera ha saputo che oggi doveva lavorare e quindi ci tocca parlare a noi in sua vece. Sì, e poi il problema è che queste forme contrattuali sono accettate da tutte le parti sindacali, cioè il fatto che ci siano contratti a chiamata nei luoghi di ristorazione è stato firmato un accordo da tutti i sindacati per formalizzare questa situazione. E in più sappiamo che, insomma, anche i sindacati con i loro collaboratori utilizzano varie forme di lavoro atipico. Sì, sì, cioè all'interno del sindacato stesso ci sono lavoratori atipici, quindi loro invece di difenderli li utilizzano. Vabbè, ok, come no, non parliamo solo sempre di sindacati. Quindi in questo quadro che cosa possiamo dire? Possiamo dire che fa molta specie che in una situazione come questa, quando si parla di precariato, non siano tutti questi giovani che in qualche modo o sono già precari o lo stanno per diventare, diciamo tutti o comunque una buona parte, non ci sia una buona parte di giovani che scende in piazza per protestare. E il dramma mi sa che è un po' alla base, perché la generazione che si sta formando ora rischia di non avere gli strumenti per lottare per i propri diritti. E così capita che in pieno 2000, anzi 2009-2010, capita che so, le cassiere dei supermercati durante i loro turni o le persone che lavorano ai call center, perché call center qui non abbiamo parlato, ma anche call center come sfruttamento del lavoro. Dicevo, cassiere dei supermercati e persone che lavorano nei call center non possono alzarsi durante il loro turno per andare a espletare dei bisogni fisiologici. E questo mi fa venire una vecchia canzoncina di Dario Fo della Comune, che a me piaceva tanto quando ero piccolo. Bei tempi, quelli in cui chi leggeva l'Unità era considerato sovversivo. Ma stai zitto, l'Unità ti ha appena pubblicato un articolo, collaborazionista. Sì, la cosa bella è che mi ha fatto anche ricercatore, quando invece sono schifosissimo precario da anni. Comunque c'è di che essere incazzati. L'inizio dell'esplosione del precariato e della fine del posto fisso la possiamo far risalire al signor Tiziano Treo a fine degli anni 90, che mi pare aver partecipato come ministro del lavoro a un governo dell'Ulivo, all'epoca si chiamava Ulivo. Sì, Tiziano Treo era iscritto alla Margherita e ora fa parte del Partito Democratico, e quindi insomma un esperto di politica del lavoro per, diciamo così dire, il vecchio centro-sinistra. E quindi possiamo far risalire a Tiziano Treo, che introdusse le collaborazioni coordinate, continuative. Il famoso co-co-co, che ricorda tanto una gallina, però. Sì, e poi ci pensò la legge Biagi, che in realtà è la legge Maroni, il nostro adesso ministro dell'interno, che fece questa esplosione di contratti di lavoro atipici. Eh sì, per inciso, cerchiamo di puntualizzare un po' qualcosa. Chiaramente noi qua non è che vogliamo difendere la centralità del posto fisso, perché ne abbiamo parlato anche nella puntata sul reddito sociale 2-3 settimane fa. Abbiamo spiegato che all'interno di un meccanismo in cui la fabbrica non è più centrale, il posto fisso non si può più considerare al centro del meccanismo di produzione. Però vogliamo fare una considerazione, cioè queste leggi, Treo, legge Biagi, hanno fatto perdere validità al contratto in sé, cioè negando la possibilità di avere dei posti fissi. Anche se tu fai il contratto per un posto a tempo indeterminato, il contratto in sé ha meno valore di quanto aveva prima un contratto fisso. In Italia, per esempio, ci sono circa 30 forme diverse di contratti atipici. Sì, e poi, anzi, addirittura si è arrivati a un momento a 44 forme di contratto, poi sono state diminuite. E poi questo partiva da valutazioni del mondo del lavoro, tipicamente o anglosassoni o del nord Europa, quando in realtà nel nord Europa, tipo Scandinavia oppure Germania o Danimarca, ci sono forme di welfare completamente diverse. Sì, sì, basate cioè, forma di assistenza individuale ben diversa rispetto a quella. Sì, e non basata sulla famiglia o sull'impresa familiare. Esatto. Come è tipicamente italiana. E per questa trasformazione dei contratti ha prodotto anche una rivoluzione di chi poteva accedere a certe forme di welfare, chi poteva accedere insomma a dei sostegni al reddito. E quindi che cosa succede? Vedete, se tu c'hai una galassia così enorme di contratti, tra l'altro io personalmente sono stato borsista, ma il contratto a cui sono più legato è il contratto di prestazione intellettuale, quello mi è piaciuto tantissimo, firmare un contratto di prestazione intellettuale per andare a fare praticamente corsi di recupero a scuola, fa piacere. Dicevo, quindi questa galassia di tipologie diverse di contratti atipici, quindi come si può poter chiedere una stessa base minima di diritti per tutti quanti? E quindi chiaramente in una situazione di questo tipo tra un po' i veri contratti atipici saranno praticamente i contratti a tempo indeterminato gestiti da contrattazione nazionale, cioè si rovescerà la prospettiva. E quindi appunto senza contratto a tempo indeterminato, senza nazionale, il welfare di cui parlavamo prima praticamente, cioè... Sì, è proprio per questo che noi ci sforziamo a parlare di contratto, che magari può essere una cosa un po' noiosa e tutto. In realtà il contratto a livello proprio amministrativo è il modo in cui una persona può accedere a tutte quelle tutele che vengono date dall'INPS, dall'INAIL, oppure la disoccupazione e tutte queste cose. Quindi io stipulo un contratto a tempo indeterminato, il tipico contratto che faceva o l'operaio o l'impiegato negli anni 70, e dopo un po' che lavoravo potevo accedere a tutte quelle forme come l'indennità di disoccupazione, cioè venivo licenziato e se avevo lavorato tipo 5 anni avevo diritto a un anno di disoccupazione. Questo quando tu introduci tipo i co-co-co, e oggi si chiamano LAP, contratti di lavoro a progetto. Ah, ok. Quando introduci queste forme contrattuali e tu non modifichi l'indennità di disoccupazione o addirittura l'indennità di maternità, uh-huh, a cui hanno accesso solo chi ha un contratto di lavoro subordinato, vuol dire che c'è tutta una fetta di persone che non ha più accesso ad un qualcosa che fino a poco tempo fa tutti consideravano un diritto. E quindi con la sola parola contratto, che è una cosa, uno dice di diritto privato, in realtà parli di tutta una condizione economico-sociale, ma anche di strutturazione diciamo culturale di un individuo, perché in Italia prima tu ricevevi indennità e disoccupazione perché tu eri il padre della famiglia che lavoravi e dovevi mantenere tutta la famiglia. Sì, era un concetto anche. Mentre oggi che è esplosa anche il concetto di famiglia tra separazioni, divorziati, single, coppie di fatto, eccetera, anche tutto il meccanismo del welfare sta esplodendo. E così, la cosa triste è appunto che, cosa possiamo dire, che questa riforma, le riforme della scuola e dell'università che si instaura in questo meccanismo, che appunto sono 10-19 anni, che tende a cambiare insomma lo tessuto sociale della nostra società, queste stesse riforme della scuola e dell'università fanno abituare gli studenti che vanno a scuola, che vanno al liceo, che si vedono appunto tutte queste figure che producono formazione alternativa, o all'università che praticamente per invece di passare l'esame devi andare a fare quello stage o quel tirocinio, quindi gratuiti, in sostanza fanno abituare le nuove generazioni all'idea di lavorare senza un contratto nazionale. Magari ti propongono anche quest'idea che non hai un contratto anche a tempo determinato come un'opportunità perché sei più libero di scegliere. Questa diciamo è la beffa oltre il danno, questo. Sì, e poi diventa normale lavorare in maniera gratuita. Uno non ci si rende conto perché ti parlano di formazione, ma se tu vai a lavorare in ufficio anche a fare cose ridicole, però tu presti la tua opera all'interno di un luogo di lavoro e tu lavori. Poi diventa normale, mi viene in mente la nostra ospite che qua non c'è, avere i contratti appunto a chiamata fasulli, nel senso che tu dovresti essere chiamato, cioè in realtà lei viene chiamata un giorno sì e l'altro pure, e poi magari viene pagata nonostante abbia un contratto che comunque, anche se le dà tipo tot euro l'ora, lei viene pagata puntualmente con 2 mesi di ritardo. Quindi, come si vede, un contratto atipico comunque non dà la garanzia. Sì, anche perché poi viene fatto il ragionamento: la cosa va male, quindi non ti posso pagare. Mentre col vecchio contratto del famoso operaio impiegato, lì il contratto era fisso, anche era se andava malissimo. Anche se la situazione andava male, non c'erano profitti, ti dovevano dare stipendi uguali. E invece adesso no, sei un lavoratore con un contratto a chiamata, sei pure un collaboratore a progetto, essendo un collaboratore non hai diritto per forza allo stipendio. Vabbè, comunque, chiudiamo diciamo con una citazione dotta presa da Gilles Deleuze, La società del controllo, così diamo anche un messaggio positivo. Chiudiamo dicendo così: non è il caso né di piangere né di sperare, si tratta piuttosto di cercare nuove armi. Ciao da Anna Damolo e alla prossima puntata. Ciao. Ma guarda quelle onde.